Gli speciali di Radio 24. Siamo qua con gli speciali di Radio 24. Oggi siamo in onda fino alle 10. Io con Oscar Giannino, perché la situazione politica è grave, ma non è seria, diceva Flaiano. Venuta contro in maniera assolutamente minacciosa, figurarsi se mi sono spaventato. Ce n'erano 100, voi sareste scappati a casa. Sareste scappati come conigli, dice qualcuno. Qualcuno! Mafiosi! Allora io vorrei dire questo: se avvengono episodi di violenza si condannano. Onorevole. Si condannano. Ma quando la onorevole ricerca... Ministro, la prego, onorevole La Russa, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole Ministro, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole Ministro, non le consento di insultare la Presidenza. La seduta è sospesa. Non è successo solo questo, insomma sono state 48 ore un po' convulse in Parlamento, ricordate la vicenda La Russa, la vicenda del Vaffa a Fini, poi ieri cosa è successo? Che c'è stata una votazione con i ministri che si sono scapicollati per votare, non ce l'hanno fatta per un soffio, allora ancora rissa, bagarre, un giornale, pare una copia del Corriere della Sera presa così che vola nell'aula, schiantandosi, pare, contro il volto del presidente della Camera Gianfranco Fini, chi ha lanciato quel non si sa. E poi ancora un episodio davvero questo incredibile, increscioso. Si è appena avvicinato un collega e già lei sa che questo è avvenuto, per dire al mio operatore che non deve permettersi di applaudire. Allora io ricordo all'aula che io non muovo le mani. Ma come si permette? Allora, chi parla tra gli scampanelli è la deputata del Partito Democratico Eliana Argentin, che è affetta da una grave malattia dalla nascita, in carrozzina, è una disabile, amiotrofia spinale, e che è stata accusata, non può muovere le mani, e quindi c'è un suo assistente che batte le mani per lei quando è il caso di applaudire un intervento. E nel parapiglia pare, così di denuncia oggi a Repubblica, dice: sono stata insultata, qualcuno mi ha anche urlato togliete la parola a quella handicappata del cazzo. È il Parlamento, ma non facciamo discorsi troppo moralisti. Questo è il tema dello speciale dalle 8:30 da adesso alle 10. Con Oscar Giannino, con il vostro contributo 800240024. La domanda che vi chiediamo, il sondaggio che vi teniamo come sottofondo è questo: rimpiangete i politici della Prima Repubblica? Giorgio Napolitano ha detto: così non si va avanti. Ha convocato i capigruppo, ha voluto parlare, parlerà anche oggi con loro. Per dire, la situazione è davvero caotica, quello che si è visto nelle ultime 48 ore alla Camera è inaccettabile. Però dice anche: bando all'ipocrisia, dico io, perché il Parlamento siamo noi, il Parlamento è la rappresentazione degli italiani, probabilmente non sono politici che sono stati votati, presi da Marte e mandati in Parlamento, sono rappresentanti dell'Italia, anche di voi che magari adesso siete in coda, una giornata anche difficile per il traffico e magari state già invendo contro il vicino perché non parte subito al semaforo. E allora, fino alle 10 saremo qui con Oscar Giannino, che è qua a fianco a me. Oscar, guarda, ecco. sono successe cose epocali, Ah, sì. La più grave è: fate tacere quell'handicappata del cazzo. Sì, pare. Questa è veramente... Mio Dio, che orrore. Vabbè. Con Oscar Giannino, eccoci qua. E parleremo tra poco, dopo la pubblicità, inizieremo con gli ospiti per capire che cosa sta succedendo dentro, ma anche fuori dal tempio della democrazia italiana, il Parlamento. Tempio? Il tempio sono per le cose serie, qui sì, oramai le cose serie purtroppo ce le levano dagli occhi e dalla testa. Vabbè. Dopo la pubblicità, 800 24 00 24, il vostro contributo. Non avete ancora capito con chi state parlando? Io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Lo volete capire, sì o no? Chi siete voi? L'onorevole. Ma io? Io? Ma rifaccia il piacere! Sentite, questo passa ogni... Onorevole! E c'è poco da ridere! Con Oscar Giannino. Oh, per chi se lo ricorda, questo è un mitico sketch in cui l'onorevole si chiamava Trombetta in bocca, per essere chiari. Ora voi direte: Giannino e Milan, questo oggi si apprestano a levare prestigio alle istituzioni, a fare una trasmissione antipolitica. No, io l'ho detto prima, cioè, il Parlamento siamo noi, cioè non è che li prendiamo da Marte. No, vabbè, siamo solo ne vuoi intendere che loro sono la rappresentazione degli italiani, dell'Italia, sì. Sostenere che sono peggio dell'Italia, certo. Vogliamo sostenere che un'immagine della stessa Italia a cui apparteniamo che non ci piace troppo. Certo, quello che sta succedendo, quello che è successo nelle ultime 48 ore, e pare solo una premessa perché settimana prossima chissà che succederà, abbiamo visto insulti, vaffa, giornali lanciati in faccia, votazioni fatte con ministri che correvano a votare. C'è una foto di Stefania Prestigiacomo, Oscar, oggi le foto raccontano più di tutto. Guarda questa foto e cerca di descriverla. Io l'ho fatta in rassegna stampa, pagina 3 del Corriere della Sera. Diciamo che con la bocca spalancata, c'è che la cerca bocca di spalancata infilare, perché non riesce a infilare il tesserino di voto nella per fessurina votare, con Alfano che dice a Fini: aspetta che stiamo votando, E poi Alfano lancerà la sua tessera verso i banchi dell'opposizione, e a quel punto l'onorevole dell'Italia dei Valori Di Pietro Donadi sarà Donadi. A quel punto dice: ah, guardate la tessera, ha attraversato l'intero Parlamento. Però la violenza di quest'atto. Noi avremo ospite al dopo le 9 Antonio Di Pietro. Alfano ha fatto un'intervista al Corriere, ha detto: no, ma io l'ho lanciata in aria, comunque mi arrabbio per essermi arrabbiato, perché... E poi c'è questa foto anche, l'Unità la mette in prima pagina, questa l'invasione è Scilipoti. Pazzesco, sì. Che sembra praticamente nel tentativo di fare un salto triplo olimpiaco, certo il fisico non lo aiuta molto, non vorrei essere razzista, e quindi c'è questa mano che verso il presidente dice: fatemi arrivare al banco per votare, ma non ce la farà. Scilipoti che corre dentro l'aula disperato, la cravatta che vola per dire: devo votare. Composta. No, il momento è molto serio, come il presidente della Repubblica Napolitano ha certificato dicendo: così non si va avanti. No, però io vorrei ricordare a tutti il titolo di Libero oggi, titolo di Libero che dice: la Russa si scusa, sono uscito di testa. Pare che l'abbia detto a Berlusconi: sono uscito di testa. Allora, noi ne vogliamo parlare con tanti ospiti in questo speciale fino alle 10, a cominciare da i primi due che saluto, sono il sottosegretario Daniela Santanchè, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Così come voglio salutare l'onorevole Paola Concia del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, sottosegretario Santanchè, che sta succedendo? Qualcuno sta un po' perdendo la testa? Magari da una parte e dall'altra, un po' tutti? Ma sai, il problema è quando non c'è l'arbitro, la partita è sicuramente più rissosa, perché non c'è l'arbitro. Oggi abbiamo un arbitro che fa il giocatore, quindi tutto questo inasprisce gli animi e aumenta le tensioni. C'è la Confini. Abbiamo il presidente della Camera che è stato eletto da questa maggioranza, oggi ci troviamo un presidente della Camera che sta facendo la campagna elettorale in Italia per le elezioni amministrative contro i partiti che l'hanno eletto presidente, quindi se si devono cercare delle irresponsabilità devo dire che dobbiamo parlare della prima, che è la sua, non avere l'arbitro è sicuramente la partita più caotica. Onorevole Santanchè, buongiorno, sono Giannino, sono un po' meno prevenuto di chi gli ha fatto la domanda prima, infatti ci alterniamo apposta per questo. Io e lui. Però mi ha colpito oggi, l'articolo di Vittorio Feltri, che lei conosce bene. Vittorio Feltri scrive oggi un articolo nel quale dice la maggioranza in Parlamento infila un errore dietro l'altro, tanto da far pensare che nello stesso partito del Premier qualcuno giochi allo sfascio. Ora, per dirlo, Vittorio Feltri non è sospettabile di essere prevenuto, ma questa tesi, secondo lei, ha del vero oppure no? C'è qualcuno nel PDL che mira a creare guai invece che a far andare avanti le leggi che si portano in Parlamento, secondo lei? Ma io devo dire che poi, siccome il PDL è fatto da persone, ognuno col proprio carattere, voglio dire, e con le proprie esuberanze, è ovvio quando ci sono situazioni di tensione, come in questi giorni, poi c'è qualcuno che così magari esaspera e fa l'incendiario anziché che fare il pompiere, però direi che sta tutto molto nella normalità, nella vita dei partiti, con le gelosie, con le invidie che caratterizzano qualsiasi situazione, qualsiasi comportamento umano. Non mi sembra una cosa, voglio dire, da esasperare facendo dietrologia, commenti, versioni. Succede, le ripeto, io ritengo che il problema sia non avere l'arbitro, o perlomeno avere un arbitro che è il dodicesimo giocatore di una squadra. Allora, se io, onorevole Concia, il Partito Democratico viene già dato per, su Repubblica, su Libero, Bersani, siamo riusciti a fermarli, battaglia nelle piazze. Ancora, l'idea di portare tutto lo scontro politico in piazza. Questo non è un rischio? Allora, io voglio dire un paio di cose. Intanto una cosa un po' leggera, cioè, no, nel senso che voi avete raccontato Totò, no? E questo ci racconta Totò, diciamo, tantissimi anni fa, ci racconta quanto la classe politica italiana sia sempre stata litigiosa in realtà, no? E questo è una differenza rispetto ad altri paesi. Un'altra cosa, io ero presente fuori in piazza quel giorno che la Russa è stato, sì, è stato in 3 anni che faccio la parlamentare era la prima volta che le persone passavano oltre la transenna. Quindi questa è una prima cosa che vorrei che tutti sapessero, cioè le forze dell'ordine e non la Camera hanno permesso ai manifestanti per la prima volta, c'è stato, vi ricordate quando ci furono le manifestazioni contro la Gelmini? Beh, non è mai accaduto che le persone e questo è una responsabilità delle forze dell'ordine, primo, e io lo dico serenamente, anche perché alla Camera è stato detto anche dal presidente della Camera, che ha detto che dipende dalle forze dell'ordine, ma poi e non dalla Camera. Quello che poi è successo voglio dire il lancio di monetine, le aggressioni verbali. E naturalmente permettere quello significa aumentare la tensione, signor Milan, e questo è ovvio, è ovvio. Dopodiché l'arbitro non c'entra niente. L'arbitro che sta nello scranno più alto del Parlamento, se il presidente se il ministro della difesa va fuori a accendere le micce, non è colpa del presidente della Camera, no, perché la Gelmini intelligentemente, quando ci sono state le manifestazioni dei giovani, non è uscita in piazza Montecitorio. Cioè, la colpa è di La Russa che è uscito, dice. Ma certo, La Russa l'ha fatto apposta, Oscar, per accendere gli altri. Poi la sua parolaccia contro il presidente della Camera non è colpa del presidente della Camera, e lui giustamente ha fatto bene. Io sono d'accordo con Casini, che ieri mattina ha detto il ministro della difesa doveva venire alla Camera stamattina e la prima cosa che doveva fare doveva chiedere scusa a tutti. Perché chiedere scusa è una cosa importante, che placa gli animi. Io penso che la situazione sia molto troppo incandescente, infatti ieri scherzando ai giornalisti ho detto che secondo me c'è bisogno di l'exodan per tutti gli uomini soprattutto, perché veramente bisogna abbassare. E infatti le dico che ieri dopo quello che è accaduto, la votazione, quando si è perso quando il centrodestra ha perso la del processo verbale, che è una cosa, ecco, che è una cosa abbastanza, poi spiegheremo. Ecco, è una cosa di routine. Io sono scesa, lo dico perché lo penso profondo, l'ho fatto, sono andata dalle ministre, c'erano ministre, ho detto guardate che qui non possiamo continuare così. Qua chiunque ha buon senso, bisogna abbassare la tensione. Tra l'altro, mi scusi onorevole Concia, qua Oscar, noi facciamo anche una domanda, no? Perché vorrei sottoporre all'onorevole Concia e all'onorevole Santanchè per avere anche le loro risposte. No, questo è il sondaggio che noi facciamo, ma rimpiangete i politici della Prima Repubblica? E io lo so, non so se sull'onda di quello che sta succedendo il 71% però dei nostri ascoltatori dice sì, li rimpiangiamo. Santanchè, qua insomma c'è il rischio di rimpiangere le grisaglie democristiane della Prima Repubblica con quello che sta succedendo in Parlamento? Guardi, con quello che sta succedendo non fa onore a nessuno. Io credo che una classe dirigente di un paese debba essere anche l'esempio, e l'esempio è assolutamente in questi giorni non può esserlo. Io dico che si è arrivato a un punto che tutti gli animi sono esasperati, l'opposizione della sua parte, noi maggioranza dell'altra. Perché bisogna avere anche l'onestà di riconoscere che non può stare l'errore soltanto da una parte. Perché vedi, io sono d'accordo con l'onorevole Concia, quello che ha detto, che non è mai successo che i manifestanti siano 2-3 metri dall'ingresso dell'aula di Montecitorio, e sicuramente ci sono delle responsabilità che dovremo verificare. Ma lei ha però avuto c'è paura? Anche, scusi, una piazza con le bandiere dell'Italia dei Valori e del Partito Democratico, perché erano bella vista e belle evidenti. Allora io credo che tutti insieme dobbiamo fare un passo indietro negli atteggiamenti, nel linguaggio, nei comportamenti, perché credo che gli italiani, al di là dell'appartenenza politica del PDL, del PD, dell'Italia dei Valori, comincino a stufarsi non solo della politica, ma comincino anche a perdere rispetto. Ma lei ha avuto un po' di paura, perché lei è stata oggetto di qualche monetina. Io non ho avuto nessuna paura, zero paura. Io entravo per i fatti miei, perché in questi giorni ho letto un sacco di versioni sui giornali che sono fantasie o forse sono volontà di scrivere cose false. Io entravo alla Camera per i fatti miei, quindi non ero legata alla Russa. Entrò alla Camera per i fatti miei, devo dire che per metà piazza tutto si è svolto bene. Gli ultimi 3 metri, ovviamente, essendo dell'Italia dei Valori, del Partito Democratico, non potevano urlarmi pelle brava. Ma voglio dire, era anche un modo di manifestare aggressivo, cattivo. Come posso spiegare? Posso fare una domanda, onorevole Santanchè? Perché mi pare di aver colto in un passaggio dell'onorevole Concia, quando ha detto l'ex transporto agli uomini, una notazione di genere, cioè come dire troppa dopamina nei maschi politici che fanno i galletti, e poi alla fine da tutto questo si innesca un processo per cui è difficile poi misurare le parole, misurare i gesti, e tutti quanti ci rimettiamo. Siccome a lei spesso, onorevole Santanchè, viene fatta l'accusa di mettersi in prima fila, di alzare i toni, eccetera, c'è una componente nella politica che sfugge di mano a questa Seconda Repubblica, nel confronto muscolare, curva nord, curva sud, tra destra e sinistra? C'è anche una componente di eccesso di dopamina maschile, per così dire, oppure no? Ma guarda, io non ne farei una battaglia di genere, non è che uomini e donne hanno atteggiamenti diversi. Forse, voglio dire, su una cosa può avere ragione l'onorevole Concia, che di solito era sempre colpa nostra, no? Perché abbiamo l'utero, l'isteria, siamo uterine, siamo isteriche. Onestamente ho visto molti maschi isterici in questi 2 giorni, quindi da questo punto di vista vuol dire che gli uomini si stanno femminilizzando, forse, non lo so. Ma io ripeto, lo dico con assoluta tranquillità, non mi piace questo clima, non mi piacciono questi atteggiamenti e non mi piace neanche che ci sia all'interno della maggioranza un godere e una caccia al colpevole, perché è brutto quando succedono queste cose, se ci sono rivali. Ce l'ha un po' con Scajola, insomma. Sì, un po' Scajola. No, non ce l'ho, guardi, ecco, non voglio cadere. No, ma non voglio dire. La politica scade di livello quando si fanno dei nomi, si parlano di persone. Ma tutti i giornali. Si deve parlare di principi, non si deve parlare di persone, perché non mi piace questa cosa del tiro al piccione. Mi piace parlare di principi e non mi piace parlare di persone, altrimenti non si fa politica, si fa gossip. Allora, noi intanto ci dobbiamo fermare, ringraziando il sottosegretario Santanchè, l'onorevole Paola Concia, per essere stati con noi. Dobbiamo dare le informazioni sul traffico, sono tantissimi gli ascoltatori che daremo in pasto anche al nostro Oscar Giannino. Sì, sì, però poi partiamo con un ridi, non diciamo che cosa, un ridi. Ma perché devi rovinare? Ma perché sì, ma perché mi viene voglia, mi si agitano i neuroni, non perché sia isterizzato. Non perché sei in Parlamento. No, non perché sono una donna, perché non lo sono. Vesti la tua e la faccia in famiglia, la gente paga per ridere come vuoi, se attacchi chi ne vuole colombina, ridi pagliaccio e ognuno capirà. Come si fa a interrompere? No, ma infatti non bisogna interrompere, tranne che per far ascoltare bene agli ascoltatori che anche in questa straordinaria romanza si dice la gente paga. Cioè, persino in questa romanza si ricorda che i soldi del contribuente, che lo Stato ci ruba, servono poi a far fare queste pagliacciate. Senti, allora. senti. L'ha presa con un semitono di troppo alla fine, Pavarotti, però... Dice, no, fai la critica, faccio la critica, Luciano. Sì, perché posso garantire critica, che... Big Luciano, Oscar... Che avvenga, il core c'era un mezzo tono di troppo perché la voce non c'era più. Questo è il Big Luciano non al meglio della sua espressione. No, abbiamo preso la sua performance... Però almeno diamo grande rispetto a un'espressione ridi pagliaccio che ovviamente a chi arriva a casa fa capire come la pensiamo. Chissà ecco, perché ci è venuto in mente. Ecco, però il Parlamento siamo noi, io continuo a dire. Sì, allora, però possiamo dire ridi pagliaccio e certo, non bisogna chiedergli non fateci ridere pagliacci, non ridete pagliacci. Intanto non... ci ha raggiunto un altro ospite, ma prima c'è qualche ascoltatore perché vogliamo sentire il polso degli italiani. Dai, Enrico da Roma, siate veloci oggi, siate efficaci, andate al punto. Rimpiangete la Prima Repubblica, Enrico, buongiorno. Enrico. Enrico, con chi sta parlando? Con uno della Prima Repubblica. Buongiorno, sento malissimo, mi scusi. Noi benissimo, dica. Si tratta di questo. Alla sua domanda se preferiamo, se preferivo gli politici di vecchia generazione, sì. Rispondo tranquillamente di sì. Perché sì. Ricordo soltanto, adesso non mi sfugge il nome, questo mi dispiace, di un politico che all'inizio di un parlamentare, all'inizio di Tangentopoli, alle prime avvisaglie si è sparato perché riconosceva in questo modo ammenda delle sue colpe, che poi erano molto modeste. E poi non posso non dimenticare... Cioè, il suo è un elogio della eutanasia, per così dire. E senta, non posso non dimenticare, se non sento tanto bene, mi piace, il ministro Goria che si è dimesso perché quando ero sindaco di una cittadina c'era stato una distorsione di fondi. Vabbè, ho capito, cioè lei dice c'era... Da... No, adesso perché rischiamo nel giro di due ore di riabilitare la Prima Repubblica come se fossero... va bene così, va bene così. Enrico, la ringrazio. Allora, prima di qualche ascoltatore, io voglio andare... ci trasferiamo in qualche modo in piazza dove è successo questo un paio di giorni fa, quando la Russa è uscita, quando la Santanchè è arrivata... Ho capito, la tua, quando dici piazza ti viene il colore viola. Visto, No, no, ma teniamoli sottofondo. C'era anche Gianfranco Mascia, che saluto. Buongiorno, Mascia. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Chiedo scusa viola. Per la voce bassa, ma le perché? Mobilizzazioni richiedono. Furia di gridare. Ha gridato troppo. Mobilitazione. Senta, ma la Russa ce l'aveva con lei? Pare, quando cioè lei è la causa di tutto, perché la Russa pare che abbia detto: ho riconosciuto uno che è sempre lo stesso, che è uno di quelli che organizza, l'organizzatore professionale. Quando la Russa, prima di perdere definitivamente la calma con il vaffa rivolto al presidente della Camera, in realtà quando è rientrato in Parlamento dopo la protesta a cui ha fatto segno, ha iniziato proprio Mascia. Dicendo questa protesta, ma che protesta? Io ho visto, ho riconosciuto in prima fila l'organizzatore professionale della cosa contro Berlusconi ed è lì a un metro dal Parlamento, ed è cioè, lei, ce l'aveva Mascia. Con lei. Come ha fatto? Ha girato gli ostacoli? Guardi, prima di tutto questa personalizzazione della protesta in qualche maniera personalmente mi spaventa, perché essere indicato dalla Russa è pericoloso in Italia e quindi credo che adesso teme che adesso non si candidi a Rodi Matteotti, però insomma. Ecco, non mi candido anche perché purtroppo ho dovuto subire un'aggressione fisica già nel 1993 a causa del mio anti-berlusconismo forte e violenta, veramente forte. E detto questo, quindi mi spaventa personalmente, credo che la protesta debba giustamente essere diluita nei confronti di tutti coloro che eravamo davanti a Montecitorio. Mm. Certamente io l'ho detto anche sul mio blog, rivendico il fatto di essere stato lì in prima fila, rivendico il fatto di essere sempre in prima fila, non pagato da nessuno per fare queste cose. Noi cittadini, a differenza di quelli che protestano nei confronti della sinistra e che Berlusconi chiama davanti ai tribunali, non prendiamo né 20 euro né un panino per fare le nostre proteste. Rinunciamo alle ferie, alle vacanze, litighiamo con la famiglia, con la moglie, con i figli qualche volta, perché togliamo tempo alla moglie e ai figli, ma non è un litighiamo po' con i datori di lavoro. Questo sì, ma non è anche un po' pericoloso, Mascia? Cioè questa radicalizzazione della piazza, le manifestazioni giuste, sono legittime, si può contestare, però guardi, secondo me tutti possono parlare di radicalizzazione, meno per esempio che la sottosegretaria Santanchè, che di prima ha detto che bisogna abbassare i toni. Vabbè, cioè, d'accordo, la Santanchè no, però aspetti, noi le stiamo facendo una domanda. No, abbia pazienza, risponda alla domanda. Cioè, va bene la polemica, può fare polemica con chi vuole, ma Milan le ha chiesto la radicalizzazione. Quindi, se lei ci dice, però non mi possono dire tizio e calo radicalizzazione, c'è la radicalizzazione in quello che fate, se no? Mascia, c'è gente che ci dice fanno bene, dovrebbero andare col forcone a anch'io, tirarlo guardi, fuori. Guardi, anch'io, guardi. Allora, primo, il fatto che noi fossimo lì davanti al Parlamento, noi anche, diciamo, viola, diciamo, no? Che abbiamo a cuore la legalità. Siamo stati noi, si ricordano bene le persone, quando dopo che è passato la Russa, dopo che è successo questo, le forze dell'ordine hanno chiesto a noi di in qualche maniera invitare la piazza a retrocedere, perché c'è stato, diciamo, un errore, tra virgolette, delle forze dell'ordine. Bella questa cosa, le forze dell'ordine che chiedono al popolo viola di tenere l'ordine. Non ha detto questo. Ha detto semplicemente che per evitare che la tensione alzi, come sempre avviene, quelli delle forze dell'ordine si rivolgono ai capi presenti dei manifestanti e dicono tornate oltre la transenne. E noi questo abbiamo tentato di fare, abbiamo fatto un sito. Però voi eravate fuori dalle transenne, perché? Noi eravamo davanti, io ero davanti alla porta di Montecitorio. Dove non dovreste essere. E allora la polemica. Mi scusi, io ma sono non la un sto cittadino contestando. Italiano, ma mi scusi tanto. Io sono un cittadino italiano. Se si permette a i sostenitori di Berlusconi stare davanti al tribunale, che è un'istituzione importante che dovrebbe lavorare in maniera autonoma, perché non si deve permettere ai cittadini italiani che in maniera spontanea sono davanti a Montecitorio? Quindi lei sta dicendo siccome c'è una violazione lì ne facciamo un'altra noi qui. Questo no, è quello che ma non dicendo. È una violazione, ma guardi, io credo che in momenti così esasperati sia più utile dare sfogo alla rabbia contenuta dei cittadini che non ce la fanno più, cioè noi non ce la fanno. Io sinceramente a volte mi domando ma come, chi ci dà la forza di continuare a mobilitarci, e mi do la risposta: la forza di mobilitarci c'è perché guardate che mercoledì è successa una cosa straordinaria, secondo me la cosa straordinaria a mio parere è stata che Berlusconi come al solito, voleva imporre l'agenda politica con le sue, io dico, le sue bugie e le sue farse. Vado a Lampedusa, faccio le promesse. E mentre invece lei dice, facendo degenerare dentro, soprattutto si è rovinato, fuori, si è ma prima dentro il Parlamento. Abbiamo rovinato dal punto di vista anche della comunicazione politica, perché poi anche Mascia, però in questa bella gara chi rovina di più è a rompere le uova. No, abbiamo rovinato la sua, però siamo entrati in agenda noi e abbiamo tutto. Vabbè, sarete entrati in agenda voi, ma a costo di sentire al Presidente della Camera, al Ministro della Difesa, eccetera, eccetera, a furia di entrare in agenda così non resta più niente, questa è l'obiezione. No, mi scusi, io dirà, non me ne frega un piffero perché io abbatto il nemico. Scusi, è esattamente questa l'obiezione, capisce Mascia? Mi scusi, io, Gianfranco Mascia e tutti i cittadini che eravamo là, non siamo dentro la Camera, non siamo noi che abbiamo causato quel casino dentro la Camera. È stato la Russa che è il ministro della difesa, che è il ministro della difesa e che dovrebbe avere... Ne abbiamo parlato fino a questo momento, però, mica abbiamo... Le chiedo, ci sareste quasi entrati. Io le dico, secondo me, il rischio è questo. No, scusi, ma noi non ci siamo in Parlamento, non siamo noi che abbiamo causato quella bagarre in Parlamento, sono i nostri parlamentari. Non siamo noi che abbiamo fatto quella pagina. Mascia, le monetine sono un passaggio epocale. Della fine della Prima Repubblica siamo tornati a farne un passaggio epocale anche di questa seconda. Chi è fuori, quando non è un moto spontaneo, ma è organizzato in una forma di protesta deliberata, motivata, legittima, siamo in democrazia, si assume anche la responsabilità dell'interazione quando ripropone schemi classici e passaggi epocali. Se la Russa ha perso la testa, ma le monetine si lanciano apposta. Lei dovrebbe dire, sì, ho ottenuto il mio obiettivo, perché più perdono la testa più li caccerò via. Allora possiamo dire, Mascia, che lei è uno di quelli che gioca lo sfascio? Sì, possiamo dirlo, punto, fine della mia opinione. Possiamo dirlo, che lei non è d'accordo, ma come legittimamente io le riconosco il diritto, io le ho fatto dire che il suo obiettivo è di far perdere la testa. Io voglio un'interazione politica in cui nessuno abbia come obiettivo. L'obiettivo è che nessuno faccia... Talvolta i conduttori dicono di no. Mascia, adesso non può parlare. Devo dare il giornale radio. Se vuole può stare con noi. La richiameremo più avanti, se no poi dopo ci accusano di censura. Cioè, abbiamo già sforato di un minuto. Questa è la Camera dei Deputati, si sente lontanamente la voce del Presidente Fini. Fini, si è preso il Corriere della Sera in faccia. Però non se ne è allontato. No, poi. Se ne levava quello con l'iPad versione... Forse era un po' più pesantoppio. Vabbè, insomma, questa è la bagarre di ieri, quando hanno cercato i ministri correndo a votare... Non ci hanno fatta. Oscar, sai cosa è successo? Perché oggi la stampa fa questa ultima pagina che è stupenda. È bellissima. La stampa di Calabresi, secondo me, devo dire. Io da torinese spendo una buona parola. Quest'ultima pagina, che è la pagina didascalica, nel quale ogni giorno si spiega per filo e per segno un fatto. Oggi è alla Camera. Gli insulti sono permessi? Questa è la domanda. E allora, pensa che il 3 dicembre 47 discute l'articolo della Costituzione. Stai dando questi precedenti, io adesso dico a chi è in ascolto, vedrete quanto è malfidato Milan, perché cita precedenti del 47 per arrivare poi a dare la parola a un insultatore, insomma, abbastanza. No. Si azzuffano comunisti e monarchici, al monarchico Covelli saltano tre bottoni e Terracini, il presidente, a un certo punto sbotta: santa miseria! Che belli quei tempi in cui il massimo delle espressioni che uscivano alla al Parlamento miseria. Era santa miseria. Allora siamo che in era, onda. Voglio dirti, una premonizione su che cosa ci avrebbero ridotte le tasse di questo stato ladro della politica ladra, cioè alla santa miseria. Era riuscito fino alle 9:11 oggi è in onda dalle 8:20. No, perché oggi, primo aprile, è Sant'Ugo, ve lo ricordate Troisi quando diceva: come lo volete chiamare il figlio di chi è derubato dalle tasse dallo stato ladro? Ugo, perché tanto il nome è così breve che arriva subito. Siamo qui con Oscar Giannino fino alle 10 in questo speciale per cercare di parlare di quello che sta succedendo in Parlamento, e vogliamo salutare Tobias Spiller. Buongiorno. Buongiorno. È corrispondente della Frankfurt Allgemeine Zeitung in Italia. Grande, io sono un grande tifoso di Tobias Spiller, perché mi sembra da tanti anni che sta in Italia che sia una fonte al quale rivolgersi spesso per farci una specie di controcanto, contropelo, perché da tedesco in Italia, e oltretutto Tobias Spiller, quando era, diciamo, più giovane, ha anche fatto, pensa, a Milan, l'assistente di un parlamentare in Gran Bretagna, quindi ha visto il Parlamento britannico e tedesco. Io dico un po' tedesco perché anche Tobias, quando parla, c'ha un po' l'accento che fa sempre, lui sottolinea perché vuole fare il tedesco, perché così non sembra in Italia da troppo tempo. E allora chiediamogli a Tobias: ma questo scenario quotidiano della degenerazione, degli insulti, del vaffa e di Pietro che dice coniglio, coniglio, le monetine, le urla, le grida, sono l'eterno ritorno della sempre commedia italiana, o in realtà c'è qualche cosa che ci rende molto lontani da quello che avviene nel Parlamento, nella politica, ma anche nella piazza, in Germania, in Gran Bretagna, secondo te? Io vedo che certamente ci sono litigi anche in altri posti, ma ci sono due elementi che sono forse diversi, sia in Inghilterra sia in Germania. Da un lato, l'autorevolezza del presidente della Camera o dello speaker del Parlamento, che è una persona rispettata, ma anche una persona terza, non è dentro la mischia della politica, come forse al momento qualcuno potrebbe vedere il presidente della Camera. E così nota la leggerezza con cui Tobias Spiller dice qualcuno potrebbe vedere in questa è da questa maniera di esprimersi che inizia la moderazione rispetto alle istituzioni. Prego, Spiller. Dall'altro lato, chi vince le elezioni anche li ha vinte, li governa, è anche rispettato in quanto maggioranza. Chi li ha perse è anche opposizione, e più lì a lavorare di vincere le elezioni tra 4 o 5 anni anziché provare la spallata ogni giorno. Ma la domanda precisa, per esempio la Merkel e i liberali come Westerwelle hanno tenuto la Germania fuori dall'operazione Libia, si sono astenute al Consiglio di Sicurezza, al Bundestag. È ipotizzabile che il leader dell'opposizione a quel punto vada in aula e dica in aula, rivolgendosi alla Merkel assente, coniglia, coniglia, come abbiamo letto in questi, la settimana scorsa in Parlamento? Cioè, sarebbe ipotizzabile per la politica tedesca? Nella politica tedesca non volano parolacce in quel senso, si deve impressionare gli elettori con altri. Chi butta troppo parolacce e chi li fa sempre più grosse non impressiona neanche i propri seguaci. E poi anche in Germania abbiamo al momento, per esempio, un presidente della Camera che veramente si fa rispettare. Tra l'altro, lui è della CDU, ma è anche quello che ha tolto tanti soldi pubblici alla CDU, per esempio, perché lui è il signore che deve indagare se qualche fonte di finanziamento di partito non è proprio lecito o trasparente, e allora lui non si farà mai criticare di non essere stato in ruolo di super partes e ha multato fortemente anche il proprio partito. Però prima che gli ascoltatori, aspetta Tobias, prima che gli ascoltatori mi aggrediscano dicendo che le mie domande sono troppo unilaterali, altra domanda però, perché c'è anche l'altro aspetto naturalmente della degenerazione politica italiana. In Germania sarebbe ipotizzabile, in Germania, dove lo ricordo tutti, un presidente della Bundesbank, non questo che è stato mandato a casa, che si è dimesso, si è dimesso lui per altre ragioni, ma il predecessore fu mandato a casa perché aveva accettato di passare in albergo pagati da una banca. Quindi in Germania saltano le teste per cosette che a noi sembrerebbero da niente, ma in Germania sarebbe ipotizzabile che la politica si difenda dai processi come si difende da tanti anni il Berlusconi con le leggi ad personam? Sarebbe ipotizzabile tanti processi su un politico? In Germania, da un lato, chi ha davanti a sé un processo e un'indagine seria, o chi ha una casa pubblica ha un canone d'affitto risicato, deve dimettersi. Dall'altro, un... Anche chi copia le tesi. Sì, anche chi copia le tesi. Sì, visto anche che un magistrato che ha fatto un'indagine speculata che è finita nel nulla in 2 settimane, ha finito la sua carriera. Ecco questo piccolo particolare. E non l'ha finita in Parlamento, al Parlamento europeo. No. È andato a Milan, è andato a casa quel magistrato lì. No, è finita l'amministrazione, certo. Mi sembra. È finito proprio, sempre col tono, sempre pacato. Sempre col tono pacato, però ha finito di fare sentenze. E non è andato in Parlamento, perché da noi c'è questa piccola particolarità. Lo dico con l'assoluta rispetto per la terzietà. Senza riferimento a nessuno. Senza riferimento a nessuno, però com'è che poi il sospetto viene, visto uno li vede al Parlamento europeo e al Parlamento nazionale, com'è sto fatto? Com'è? No, ma intanto io voglio ricordare questo, perché aggiorniamo un attimo il sondaggio. Noi siamo in questo speciale fino alle 10, perché come diceva Flaiano la situazione è grave ma non è seria. E 72% rimpiangono la Prima Repubblica, Repubblica. 72% dei nostri ascoltatori che possono sempre chiamare. E, però io ricordo una volta intervistai Cossiga che quotava Winston Churchill, sì. E diceva, sempre ritornando alla questione del Parlamento siamo noi, e Winston Churchill diceva c'è una percentuale incerta di cretini nella società civile, è giusto che siano rappresentati proporzionalmente anche in Parlamento. C'è la percentuale di onesti, è giusto che... Cioè il Parlamento rappresenta... Cioè tu sei che proprio siamo... convinto del fatto che questa classe politica sia un fedele specchio del paese? No, vorrei porre una riflessione. Io non ne sono convinto. Io non perché... sono convinto, ma vorrei che si riflettesse anche su questo. Se no, questo, se no andiamo... Ovvio. Se no è chiaro. Vogliamo sentire un paio di ascoltatori? Sì. Ferruccio da Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Senta, io volevo dire questo, che la democrazia è bella perché vuol dire che sono le persone che comandano e quindi è il paese reale che comanda, però comanda attraverso i propri rappresentanti e comanda in base alle proprie idee, ma le proprie idee sono in base alle proprie informazioni. Se le informazioni te le dà tutte una persona sola, quella persona è padrona della democrazia. No, un attimo, Ferruccio. Qua, e per questo... Ferruccio, mi ascolti, c'era il microfono spento. Vorrei che ma qui fanno così con me. Le dà solo una persona, Giannino ha detto? Milan. Ecco, vabbè, doveva farla. E naturalmente il mio microfono era spento, quindi non si è sentito. Milan, appunto. Vabbè. Dica, Ferruccio, allora, lei si riferiva non a allora me. Allora, volevo dire questo. Che... la democrazia vuol dire che le persone votano in base alle idee che hanno, sì, e in base alle informazioni che hanno, ma le informazioni sono date da una sola persona. Allora, a chi si riferisce possiamo forse intuirlo? Milan, forse no, al padrone del Milan. E quindi, Ferruccio, io non trovo nulla di comico in questa cosa. No, qua. Ma dai, su, è una cosa molto drammatica. Guardi, io non so se sia drammatica, perché come sa, da 17 anni la tesi secondo la quale gli italiani sono soggetti all'influenza automatica di chi comanda l'informazione è puntualmente, una volta sì e una volta no, smentita dal risultato elettorale. Su questo quindi mi consentirà, come io rispetto legittimamente il punto di vista di chi dice che è un'anomalia, questo sì, è un'anomalia totale il conflitto di interesse e il duopolio televisivo italiano, ma che da questo ne discenda che Topolini dietro un pifferaio magico, incapace di intendere di volere, c'è che di fronte al conflitto di interesse e all'anomalia del Berlusconi in politico, ci siano le vittime di manipolatori, professionisti dell'informazione al servizio delle tenebrose forze del male, è legittimo che lei lo dica ed è legittimo che io gli faccia una risata, perché gli italiani da 17 anni, una volta sì e una volta no, quel pifferaio magico che promette cose che non mantiene, quindi come vede io sono dichiaro il mio punto di vista, però alla fine perde una volta sì e una volta no, e quindi c'è qualcosa che non torna in questa tenebrosa soggiacere alle forze dei manipolatori. Io posso aggiungere solo questo tono, perché mi accusano anche, per esempio Oscar, noi mettiamo sul sito nostro di 24 mattino le foto dei ribelli, quelle più spassose, ci accusano, ridete della morte, adesso non si può ridere della situazione del Parlamento, ma insomma io invito tutti quanti a farsi una sana buffoni, lettura, se facciamo una posso risata, dire, vogliamo elevare un secondo? Elevo di un secondo, guardate, su questo eccesso di aggressività nella politica, che è una componente da sempre dell'aggressività e della politica, politica, un po' di sane letture. Allora, io indico tre strade. Filosofia classica, ci sono due cose diverse. Fedro, il Fedro di Platone, riprendetelo in mano, laddove dice che il povero uomo, l'auriga alla guida del suo cavallo, c'ha, alla guida del suo carro, c'ha due cavalli, uno bianco e uno nero. Quello bianco è l'anima concupiscente, anzi, quello bianco, a dire la verità, è l'anima irascibile. Quello nero è l'anima concupiscente. Dice Platone, noi siamo fatti di tutte queste cose e il problema è che non riusciamo a controllarle. Dice Aristotele, no, l'uomo razionale è perfettamente capace di controllarle, io non credo molto. Dice Seneca, ah, le passioni sono estranee all'uomo, il saggio sa farne a meno. Il De Ira, leggetevi il De Ira in politica è una roba che dà sempre a che fare con questo. Poi alla fine mettete da una parte la filosofia classica, ho finito la parentesi, e leggete Erich Fromm. Erich Fromm dice l'aggressività è una componente essenziale degli esseri umani, però si divide in due. C'è un'università adattativa, positiva, quella che ci serve a sopravvivere dei tempi della giungla e che ci serve avere a che fare gli uni con gli altri, ma graduando il tono, la durezza, l'asprezza a seconda del fine, che è quello di realizzare una comunità positiva. Poi c'è quella, l'aggressività negativa, che è distruttiva e autodistruttiva. Ecco, sapere distinguere l'aggressività adattativa da quella distruttiva e autodistruttiva è la differenza tra chi ti dice, caro Alessandro, che non devi mettere la foto perché sennò deridi la morte, e ti dice che sei un manipolatore dell'informazione. Distinguiamo l'aggressività adattativa positiva da quella distruttiva e autodistruttiva. Allora, sentiamo Elmo dalla provincia di Firenze. Buongiorno. Il sondaggio che facciamo è quello, rimpiangete la Prima Repubblica, i politici della Prima Repubblica. Questo è il tema di fondo. Elmo. Buongiorno a tutti. Io non rimpiango la Prima Repubblica, non gradisco la Seconda Repubblica e vorrei una Terza Repubblica. Spera nella Terza. Premesso che non sono un politico, premesso che lavoro 10-12 ore al giorno, compreso il sabato fino alle 15 circa, premesso che mi rendo conto dei problemi che hanno non solo i privati ma le piccole e medie imprese che sto seguendo nella mia attività professionale, premesso che abbiamo da pochi giorni festeggiato i nostri 150 anni di Unità d'Italia, premesso che quindi ritengo che dovremmo sentirci tutti italiani uniti. Sì, fatte queste premesse. Premesso che in questi giorni in modo particolare si sono insomma dimostrate delle espressioni, delle offese, delle parole, delle situazioni veramente insostenibili. Secondo me, penso che ci sia necessità da parte di chi ci governa di rendersi conto che gli italiani hanno necessità di essere guidati, governati, aiutati, sì, in modo particolare in questo momento così difficoltoso per tanti motivi, la nostra economia, il nostro lavoro, e quindi dico perché devono continuare, anzi peggiorare sempre di più i loro rapporti. Qua c'è bisogno di dialogo. Il dialogo. Lei è Gianni Letta. Lei Gianni Letta si è incarnato in Elmo da provincia di Firenze. Grazie Elmo, insomma, ha fatto tante premesse, ma insomma ha invitato come ha fatto. Osservazione breve. Dialogo va bene, però evitiamo anche gli errori. Ne indico proprio due al volo. Il Fondo Sovrano, di cui Sole 24 Ore ieri ha dato la grande notizia. Il Fondo Sovrano, in cui si studia il tesoro per salvare le aziende del latte, eccetera, eccetera. Il Fondo Sovrano che serve ad allargare ulteriormente la sfera discrezionale di intervento lo Stato, è un grave errore. Meglio che non solo che dialoghino, ma che arrivino a evitare errori come questi. Oppure, lo dico, Luca Zaia, che in Veneto si trova a 60 milioni di euro di deficit sanitario, e uno va a vedere 60 milioni di euro su 8,4 miliardi di spesa sanitaria della regione, cioè lo 0,7%, e di fronte a un deficit dello 0,7%, non fatto da lui, ma dice io alzo le tasse, non riesce a tagliare lo 0,7% del totale della sanità. Questi che dicono che i voti li pigliano sul vi leveremo le tasse e taglieremo la spesa, io dico a quel punto è persino peggio che litigare. No, attenzione, perché però, Oscar, è gente che commette un latrocinio di fede, speranza e verità. Ieri ti ho pensato molto, perché non solo come ha vedete detto, lo dico non però solo ha detto metto l'addizionale IRPEF, Zaia, certo, sto pensando l'addizionale, certo, ma non solo, ha detto ma non per tutti. No, ma infatti, solo per i più ricchi. Doppio errore. Ne abbiamo parlato il giorno prima. Benissimo, ma come vedi, non è che io ce l'ho solo contro la CGIL. Ma io, per carità, il nostro mestiere, se uno dichiara il suo punto di vista, e il mio è meno Stato, meno tasse, meno Stato ladro, allora deve applicarlo a tutti, anche quando si propone più Stato al ministro del Tesoro con il fondo sovrano alla francese, i francesi non sono da imitare mai praticamente, sì, ecco, sì, neanche in questo. E se Zaia dice alzo le tasse pur di non tagliare lo 0,7 del totale del bilancio della sanità, io dico che Zaia sbaglia. Allora, no, io intanto nel ringraziare Tobias Spiller che è stato con noi, grazie molto Tobias per essere stato grazie con voi, noi. Buongiorno. Io voglio salutare, tra poco c'è la pubblicità, però Oscar l'abbiamo preso al volo e quindi lo dobbiamo ringraziare, è un onorevole del PDL. Allora io faccio questo gesto prima, ho una copia del Corriere in mano, ho una copia del Corriere. Ma tu sai chi l'ha lanciato? No, non si sa, un indiziato, cioè, attenzione, ieri è successo questo dopo la votazione, c'è una copia del Corriere che e a terra sulla faccia pare di Gianfranco Fini sul corpo. Ma era una maniera, credo, solo per ricordargli l'importanza dell'informazione. L'onorevole Pietro Franzoso è colui che, pur smentendo, è indicato come il sospettato numero uno. Onorevole, buongiorno, Pietro Franzoso. Buongiorno a voi e ai vostri telespettatori. Ovviamente lei ha detto no, il Corriere mi ha sorvolato la testa ed è proveniva da dietro. Premesso che credo non c'è bisogno di fare tanti scoop, perché credo e sarebbe sufficiente che qualcheduno visionasse le telecamere interne e forse... ma potrebbe... però è un mistero, non si capisce no, che è stato. Potrebbe pure capire se chi l'ha bilanciato, non lo so. Ma detto questo, io continuo a dire due aspetti. Uno, che non l'ho lanciato io il foglio di esclusione, perché io ero colui che inveivo contro il presidente Fini che gli diceva e definendolo scorretto, e lo diceva a squarciacola, questo sì, sul metodo di conduzione che era dei lavori in fase di votazione, perché era basata su una scorrettezza unica di conduzione dell'Aula. Quindi lei con Fini ce l'aveva, questo sì. No, non è questo. Allora le dico molto semplicemente, per me che sono un attento assertore e rispettoso dei lavori dell'Aula e anche dei regolamenti per certi versi e delle funzioni, Fini 30 secondi prima, additando e rivolgendosi ai banchi della sinistra, aveva asserito, rimbrottandoli, che chi era in Aula aveva il diritto di votare, di esprimere il proprio voto, e questo era riferito proprio a quei colleghi e ai ministri che in quel momento erano entrati e avevano preso la testa per andare a votare. Fini, dopo appena detto questo, dopo qualche secondo, senza consentire a quei ministri neanche di inserire ad alcuni la tessera nell'apposito spazio per votare, ha chiuso inopinatamente la votazione. Allora qui il gioco delle tre carte, del prendere in giro, credo. Vabbè, insomma, lei non può essere consentito neanche al presidente. No, onorevole, lei ce l'aveva con Fini, però dice il Corriere non l'ho lanciato io, il giornale non l'ho lanciato. Poi voglio pure dire, diciamoci la verità, siccome ho visto quando è arrivato, premesso che era un giornale piegato in due e non appallottolato, come qualche uno ha voluto dire, che è stato lanciato evidentemente in alto, come in quel momento sono stati tirati dei fogliettini a chiunque, non è caduto in testa a Fine, ma è caduto a 2 metri di distanza dal Fine, e nel cadere è che si è aperto e sono caduti dei fogli, quindi evitiamo di fare questa demagogica, dico io, offesa al presidente che non c'era. Onorevole, dica la verità, lei lo sa chi l'ha lanciato? Assolutamente no, perché ero girato di spalle, che ero lì ad inveire a squarciacola e Fini a inveire nei miei confronti, però che non ho ascoltato quello che diceva, ma che io gli rispondevo e gli gridavo in faccia, scorretto, per mettere in evidenza la sua scorrettezza. Scorretto, lei cosa gli urlava? Scorretto. Scorretto, scorretto. È stato uno scorretto. Qua c'è Oscar Giannino, non so Oscar. No, io non ho visto. Secondo me bisognerà riproporre probabilmente seralmente lunghi spezzoni della prova TV, e come vedo il calcio diventa. Facciamo per la Russa c'è la prova TV, proprio il Vaffa lì. Per la Russa il Vaffa è inequivocabile. Però per esempio, sul resoconto c'è, però attenzione, appunto, però attenzione, e questo passaggio del nostro ospite ci rende un piccolo spazio di attenzione al quale non avevamo prestato fino a questo momento. Cioè, se è vero quello che ci sta dicendo, bisognerebbe monitorare anche un po' meglio e non lo dico perché milito a favore o contro della tesi, quello che dice e fa nella sua gestualità e nel suo vocale il Presidente della Camera. Perché i microfoni lì si spengono. Esatto, si, quindi... Ma noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Onorevole Franzoso, intanto la ringraziamo molto per essere stato con noi. Certo, non usate gli iPad, perché gli iPad quelli a volare è peggio. Se iniziate a leggere i giornali con l'iPad e poi lanciate il Corriere in versione iPad, quello magari, o anche solo 24 fa più male, insomma. Fa male, anche se arriva a 2 metri e schegge di iPad arrivano sulla faccia del Presidente. Grazie. Alle 9.34, San qui fino alle 10. Spettacolo, solo cronaca di quello che ogni giorno capita nelle istituzioni. E anche un po' fuori, poco fuori, qualche metro, pochi metri fuori. 72% rimpiange la Prima Repubblica. Siamo in diretta fino alle 10 e questo è il sunto. Oscar, lo facciamo risentire, perché insomma, dobbiamo farlo risentire, anche perché oramai qua si batte la percentuale del pentapartito, eh. Una persona che mi è venuta contro in maniera assolutamente minacciosa, figurarsi se mi sono spaventato. Senti qua la Russa, figurarsi. Ce n'erano 100, voi sareste scappati a casa. Sarete scappati, ministro. Come conigli, dice qualcuno. Allora io vorrei dire questo: se avvengono episodi di violenza si condannano. Se onorevole. Si condannano. Ma senti l'applauso di La Russa, che applauso. Ma quando la onorevole ricerca... ministro, la prego. Onorevole La Russa, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole ministro, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole ministro, non le consento di insultare la presidenza. Qui c'è stato il vaffo. Non si sente il vaffo. Poi la seduta è sospesa. Arriva la parte più vergognosa. No, non questa. Non c'è qua la... della deputata argentina. Me la fate sentire invece la vicina della deputata argentina? Quella è veramente una cosa ignominiosa, successa, se è successa. Mi ha appena avvicinato un collega e già lei sa che questo è avvenuto, per dire al mio operatore che non deve permettersi di applaudire. Allora io ricordo all'aula che io non muovo le mani. Ma come si permette? Io ti giuro, quando sento l'onorevole Argentina urlare vergogna, l'onorevole Argentina è malata, è affetta da miotrofia spinale, non muove le mani e dice oggi a Repubblica: mi hanno urlato dai banchi della Lega, non date la parola a quell'handicappata del cazzo, mi sono sentita violentata. Penso che... adesso questo è uno delle, spero che non sia vero, delle poche, però, anch'io però dubitare, è una delle poche circostanze che mi inducono veramente a cambiare tono, perché poi penso che sia anche giusto far capire a chi ci ascolta che poi comunque la si pensi, sia loro sia noi, ma in realtà bisogna poi di fronte ad alcune cose cambiare tono. Cioè qui non è questione di immaginare che nel tumulto di un'aula di fronte al ministro della difesa, al presidente della Camera, la questione però rivelata da ciò che viene detto in quei momenti all'onorevole Argentini mostra appunto che manca ogni possibilità di mantenere fermi dei paletti che consentano di distinguere l'elementare dovere di rispetto verso chi ha un tipo di malattia di quel genere. Quando non c'è questo paletto e salta automaticamente anche questo, figuratevi come si può immaginare che ci possa essere una seria analisi dei problemi del paese, cioè di tutto ciò che fa parte della politica ordinaria. Come si può immaginare? Esatto, quando non c'è questa cosa che è elementare, perché viene prima di qualunque altra possibilità di confrontarsi sui problemi politici. Noi ne vogliamo parlare adesso con una giornalista, scrittrice, Lina Sotis, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno. Ecco, e noi abbiamo scelto Lina Sotis perché? Come uno degli spazi più seri della nostra trasmissione di oggi. Perché mentre, come avete sentito, tutti gli esponenti politici che abbiamo chiamato a riflettere fino a questo momento tendono o a esprimere in maniera di circostanza la cosa, l'appello al dialogo, oppure a dire la colpa è degli altri, Masha ha detto poi obiettivamente: io, se gli altri perdono la testa, porto a casa il mio obiettivo. Allora penso che dovremmo fare un passo indietro e rivolgerci, quindi, per questo è il senso di chiedere a Lina Sotis di stare con noi qualche minuto, di chiedere a una riconosciuta, autorevolissima, maestra, ma non delle buone maniere formali, di come le buone maniere, i principi, la dignità, in qualunque forma ed espressione del vivere civile, siano uno dei più grandi bagagli in cui identificare la civiltà stessa. Siccome Rina Sottis, con la serietà e con l'ironia a volte, con una grande penna, ci ha sempre fatto riflettere, per chi la conosce, l'apprezza negli anni su questo punto, chiedo a Rina Sottis se il Parlamento, in un attacco di intelligenza, le chiedesse una consulenza per dire: abbiamo bisogno di qualcuno dall'esterno capace di farci rispettare le forme e la dignità che sono la sintesi della civiltà, ciò che viene prima, che poi si dividerà sulla politica, ma senza questa sintesi non è civiltà. Lei, per svolgere quell'incarico di consulenza, che cosa direbbe ai signori parlamentari della maggioranza e delle opposizioni? Che cosa dovrebbero rispettare per riacquistare questa civiltà, che poi è il presupposto per avere rispetto anche dagli elettori e per dare un'immagine di un paese che sia un po' meno lontano da quello che Giorgio Napolitano ci descrive? Senta, intanto consiglierei a tutti quanti di leggere Norbert Elias, Potere e Civiltà, perché l'educazione è un fatto politico. Esatto. E nasce quando il re Sole a Versailles vuol tenere imbrigliati i cortigiani perché ha paura che ci siano degli attentati o dei tradimenti. Il passaggio dal cavaliere al cortigiano è il grande passaggio politico. Il Parlamento è praticamente l'espressione del potere politico, non può assolutamente ignorare da dove viene, ovvero dalle buone maniere. A parte questa chiosa, come dire, letteraria, per quello che riguarda me, per quello che riguarda la cittadina Rina Sottis, che vergogna, li manderei tutti a casa, meno la signora Malata. Meno la signora malata. Vede? Anche questo per dirvi, perdonate, alcuni ascoltatori erano perplessi quando ho iniziato il mio pistolettino nel presentare Rina Sottis. Ma come, Rina Sottis cosa c'entra con questi temi seri? Perdonate, avete sentito la sintesi e il riferimento anche storico-politico, per così dire? Vi sembra meno serio di quello che avete sentito fino a questo momento? Tra a me no, tra l'altro a me Oscar, sembra molto più serio. Oscar, e chiedo anche a Rina Sottis, ha aggiunto in questa intervista l'onorevole Eliana Argentina, dice: quando l'onorevole Osvaldo Napoli, non è lui che ha detto, però l'onorevole Osvaldo Napoli ha generato la questione perché ha detto: non applauda l'assistente dell'onorevole Argentina, e l'onorevole Argentina ha detto: io non muovo le mani, non muovo le mani, e quindi insomma faccio applaudire il mio assistente. L'onorevole Osvaldo Napoli, nello scusarsi, si è avvicinato e gli ha detto: sa com'è onorevole, io non ti ho mai guardato, quindi non lo sapevo che non muovevi le mani. E l'onorevole Argentina ha detto: questo ha peggiorato la situazione. Mi ha fatto una grande pena, perché sono così, insomma, non, no, è ancora più grave, cioè questa cosa, io non ti ho mai guardata e quindi non sapevo che muovevi le mani. Siamo in legislatura da 2 anni, voglio dire, Rina Sottis, questo le fa un'ulteriore considerazione, le fa fare su quello che è successo? Senta, ma qui dobbiamo semplicemente chiederci dove li hanno trovati, come sono usciti fuori dal cappello. Una è l'amante di uno, l'altro è l'amico dell'amico dell'amico dell'amico dell'amico di altro, l'altro ancora non si capisce bene come è potuto arrivare, ma anche a Roma. Ma insomma, non abbiamo mai visto niente di simile, mai. Io penso che non si possa che unirsi a un applauso queste parole di Rina Sottis, davvero, perché, ripeto, questa è un'altra considerazione che prescinde da, la potete essere più favorevoli o più distanti a questa o quella parte politica, ma questo è un altro fatto oggettivo della politica di questi anni, di questa legge elettorale, di questi meccanismi di selezione, che producono il risultato descritto in poche parole, secondo me, col giusto tono da Rina Sottis. Intanto la ringraziamo molto, Rina Sottis, per essere stata con noi. E ovviamente buona giornata. Fatemi però una gentilezza, sì, per piacere. Fate 2 fotocopie del capitolo principale di Norbert Elias, del Potere e Civiltà, e speditelo a Sarà fatto. Sarà fatto, grazie e buona giornata. Voglio sentire Fulvio dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno a voi, intanto grazie di questi bei dibattiti. Volevo solamente collegarmi a quello che avete appena detto e fare un appello a voi che siete opinion leader, perché dobbiamo smetterla di chiamarla la vecchia prima repubblica e la nuova seconda repubblica. Siamo ancora nella prima, cioè non c'è stato nessun cambiamento istituzionale, la Costituzione è rimasta la stessa. Però, okay? Però il maggioritario ha cambiato la forma. E anche le persone, perché è un po' una leggenda che ci siano gli stessi parlamentari. C'è stato un grande ricambio, molto più di quanto si pensi. Scusi, siamo nella seconda repubblica solo perché governano, e governano non solo al governo, ma anche i partiti tutti, le seconde file della prima. Ricordiamoci questo. Ah, dice i portaborse della prima. Cioè. Ma questo è successo, ragazzi. Cioè, voglio qui dire... stiamo scadendo proprio un po' nell'antipolitica. Però questa è una tesi, secondo me, molto fondata. Molto fondata. Cioè, quelli che si sono formati, ma. Ma formati per tra virgolette. Stavo dicendo tra ma virgolette. Male. No, tra virgolette. Cioè, l'equivoco che per cui la fine della prima repubblica, e cioè il fatto che poi alcuni sono sopravvissuti perché le indagini non li hanno travolti, in realtà. E l'anomalia Berlusconi ha fatto sì che da una parte e dall'altra, da una parte per diretta continuità al centro-sinistra, per essere chiari, dall'altra invece per il meccanismo di ripescaggio di Berlusconi, fossero in realtà davvero le seconde e le terze file a dare continuità. Questo è un fatto, secondo me, sottovalutato. L'ascoltatore ci ha aiutato a riflettere su una cosa giusta. Non avete ancora capito con chi state parlando? Io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Lo volete capire, sì o no? Chi siete voi? L'onorevole! Ma io? Io? Ma rifaccia il piacere! Sentite, questo passa ogni... Ebbe. C'è poco da dire, però... Queste sono cose eterne, Oscar, eterne. Io vorrei che tu facessi una riflessione anche su questo. Se una persona come il ministro Alfano, di cui si può discutere delle idee politiche, delle riforme, eccetera, ma la cui compostezza, il cui modo di porsi è indiscutibilmente quella di un politico molto... Spesso molto viene considerato appunto una promessa per l'avvenire, per evitare gli eccessi di altro della sua parte dice politica. Ogni tanto arrabbiati, scomponiti un po', no? Ieri ha gettato questa scheda. Lui dice in aria, non l'ho gettata verso l'Italia dei Valori, e si dice ma mi pento di essermi arrabbiato, subito già rientrato nel suo ruolo molto... Cioè, voglio dire, se anche Alfano... Vuol dire che la situazione di dopamina, che è naturale, guardate, non confondete, non sto dicendo sostanze assunte, la dopamina è quella della... Ci sono state anche quelle accuse. Ghiandola pinale, sì, ma sono sbagliate, sono sbagliate perché fanno capire che la gente non ne sa niente di neurofisiologia, cioè qui la ghiandola pineale è quella che parte, e prevale sulla corteccia cerebrale in quelle circostanze, è proprio così, è il meccanismo fondamentale per cui l'aggressività, come tutte le espressioni istantanee, della sfera istintiva, hanno a che fare con questa parte del nostro cervello, quella più antica. Intanto, visto che il tema della nostra trasmissione è il tema di fondo, mentre per esempio però Fini, che è uno molto ragionevole e molto misurato, lui... riflettiamo nella sua ragionevolezza e misura quella che fa scattare quelli come Alfano. Riflettiamoci un secondo. Dici? Su questa cosa. Temo di sì, no. Ma non do colpa. Sto spiegando il meccanismo di relazione. Meccanismo, certo. Perché alla tua domanda, perché uno calmo come Alfano butta la tessera? Perché uno calmissimo, ma che la pensa diversamente da Alfano, di fronte al quale un ragionevole come Alfano dice mi fai veramente perdere la calma, e uno calmissimo come Fini che fa perdere la calma a quello calmo. Se fosse più rissoso si butterebbe tutto. Allora, visto che appunto abbiamo detto il sondaggio è... comunque ci chiediamo, rimpiangete la prima repubblica, abbiamo chiamato uno che la prima repubblica, anche un bello spezzone della seconda, la conosce, Alfredo Biondi, buongiorno. Buongiorno, quante legislature ha fatto? Ho fatto 8 alla Camera e 1 al Senato. Ecco, ho presieduto la Camera per 4 legislature. Risse ce ne sono state, per carità. Sì, io sono stato deputato eletto allora con 40 anni nel 68, e quindi ho visto anche la fase più conflittuale ideologicamente parlando. E questa fase come? Cioè queste 48 ore lei come se le spiega? Abbiamo toccato il fondo. Io ho presieduto come vice vicario la Camera con Laiotti, con Napolitano, con Violante, con Casini. Sono stati sempre momenti difficili, ma per la Presidenza e verso la Presidenza c'è sempre stato un grande rispetto, e anche tra deputati, francamente, anche quando ci arriva qualche invettiva, le faceva anche paietta, ora non facciamo le mamolette, non facevano, staccavano le tavolette, qualche alterco c'era allora, ma non c'era questo, ecco, quello che si coglie ora è l'acrimonia, si sente il sapore del disprezzo reciproco. Il disprezzo è Oscar. Posso chiedere a Biondi, liberale, storico, quella persona di cui, insomma, nella prima come poi nel proseguo, io personalmente sono, lo ammetto, lo dichiaro, sembra un conflitto di interesse, ma voglio bene a chi viene da questa parte, di quella famiglia culturale, però proprio per questo le chiedo, c'è chi sostiene, e l'anomalia di Berlusconi da 17 anni a questa parte, che ha finito per incrementare il tasso di acrimonia politica, perché Berlusconi, a differenza dei politici della Prima Repubblica, che avevano il senso dell'opportunità, cioè quando colpiti da un avviso di garanzia o da un processo si facevano da parte e tanto c'era qualcun altro del partito che prendeva momentaneamente o per sempre il loro posto, invece Berlusconi non si fa travolgere, e peggio di Ercolino, sempre in piedi, 28 processi, può accadere quello che vuole, lui combatte, e questa è la differenza tra Berlusconi, resta in piedi e quindi cresce il tasso di odio, divisione, attacco nei suoi confronti proprio perché resta in piedi. Chi sostiene questo e dice la colpa in definitiva dell'aumento di acredine da cui c'è il discredito delle istituzioni è insito nella natura di anomalia di Berlusconi, ha ragione o ha torto secondo lei? Io dico che c'è il fattore B, cioè il fattore Berlusconi è un fattore atipico, nel senso che sono visibili i suoi pregi e i suoi difetti. I suoi pregi sono quelli di una capacità di lotta, di anche di ammortizzare le disgrazie che gli possono via via capitare. Un mucchio di cose. Poi i suoi difetti sono quelli di ascoltare poco le persone che gli stanno intorno e qualche volta ne ascoltate troppo quelli che non dovrebbero essere ascoltati. Che gli fanno fare poi grandi cappellate, diciamo. Ecco, qualche penso di sì. Ma la cosa più importante, secondo me, di questo fattore B è la questione che in Italia c'è una divisione, cioè il bipolarismo porta a una divisione che non è una visione dell'alternanza, è una visione del rimango io e tu non venirci mai, quindi c'è una specie di... È un'eterna instabilità piuttosto che qualcuno decide. Anche se poi devo dire il paradosso, o meglio il paradosso, dai giornali Berlusconi pare il più infuriato con la Russa, cioè pare che l'abbia proprio chiamata, infatti la Russa dice certo. Libero, si è scusato. Perché si è compromessa l'atmosfera parlamentare sulla prescrizione breve. Ha fatto anche slittare, poi perché tutto nasce dal tema della prescrizione breve, che è quello di cui da cui si è partito, insomma. Tra l'altro mi scusi Biondi, ci ha chiamato? Sì. Biondi, un attimo, perché ci ha chiamato l'onorevole Guido Crosetto, che è sottosegretario alla difesa. E che salutiamo. E che salutiamo, eccoci qua. I microfoni sono aperti per tutti, non solo per gli ascoltatori, ma anche. Onorevole, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a voi. Allora, perché ci ha chiamato? Ci deve. Siamo pronti? No, vi ho chiamato per un semplice motivo. Sì. Sono in macchina e quindi stavo ascoltando in un trasferimento la vostra trasmissione. L'immagine però di dire questa camera fa tutta schifo perché c'è della gentaglia, c'è della gente che non fa niente, ci sono persone rissose, persone che insultano gli altri. Generalizzare mi sembra sempre un errore. Se un giornalista radiofonico picchiasse una persona, io non direi tutti i giornalisti radiofonici sono dei maneschi che vogliono picchiare. Sono persone che sono alla camera. Avevano una vita precedente e vivevano tranquillamente nel mestiere che facevano prima, che magari, posso parlare personalmente, dalle 7 del lunedì alle 9 del venerdì sono a lavorare e non hanno tempo per fare risse, che hanno rapporti civili sia in maggioranza sia in opposizione. E sono la stragrande maggioranza. Vedono un collega che fa una stupidaggine, sono i primi a dire quello sta facendo una stupidaggine. Quindi, onorevole, ci accusa un po' di qualunquismo. Degli UFO sì. Mangiapane a tradimento, come si dice dalle mie parti, che non sanno cosa fare e allora bivaccano alla camera. No, ma è stato che Oscar qua. Se l'immagine che esce è solo quella, no, fa tutto schifo. Vabbè, cioè uno può anche ascoltare, dire si fa tendenza, più si insulta in questo momento meglio va, sia all'interno della camera sia all'esterno, però in realtà non è così, ci sono anche delle persone per bene da una parte e dall'altra che vanno, lavorano, cercano di impegnarsi, hanno senso delle istituzioni, hanno rapporti civili con i colleghi che siano di Rifondazione Comunista, che siano di Alleanza Nazionale o ex Alleanza Nazionale e che cercano di servire le istituzioni come servirebbero. Ma questo, onorevole, io dico solo 10 secondi, poi Oscar... Nel ragionamento poi Oscar Giannino dirà la sua. Io in 10 secondi mi rifaccio la premessa da cui siamo partiti, cioè io ho detto il Parlamento è uno specchio dell'Italia, no, questo Oscar l'ho detto più volte, quindi non ho mai detto io, ma neanche Oscar specchio, Giannino, che È come, essendo uno specchio, è come se voi stesse dicendo l'Italia fa tutto schifo, è pieno di violenti, ridateci, no, c'è di tutto, c'è di tutto, come? C'è di tutto, c'è, è di una tutto. Rappresentazione, è una rappresentazione, è una rappresentazione dell'Italia, è come la responsabilità penale e personale, anche la responsabilità delle stupidaggini sicuramente personale. Oscar, capisce, se un mio collega perde la testa e dice a una collega che non può applaudire, come mai fa problemi con me? Adesso non è che posso dire alla Camera i 600, gli altri 629 sono dei cretini. Allora, io penso che l'onorevole Crosetto ci aiuti a una riflessione finale per quello che mi riguarda, cioè è giusto quello che dice l'onorevole Crosetto. L'onorevole Crosetto, figuriamoci, io poi riconosco, lo conosco bene, lo apprezzo, è uno per esempio di quelli, lo dico io, lo dico io, di quelli che per esempio nel partito in cui sta non ha avuto riconoscimento perché non intendeva rompere le scatole, per dirne una, che è un'altra delle componenti su cui stiamo riflettendo. Allora, nel dare ragione all'onorevole Crosetto, dico, la differenza nel ingenerare poi sfiducia e delegittimazione della politica sta in che cosa? Nel fatto che nel Parlamento non ci sia qualcuno, non dico tutti i parlamentari, ma qualcuno che ogni tanto perde la calma? No, perché quelli sono esseri umani. Ma nel fatto che per evitare il discredito, la delegittimazione, bisognerebbe che chi fa la cappellata, allora a quel punto venisse chiamato a pagarne il fio. Si tratti o del Presidente della Camera, per essere chiari, o in questa vicenda del Ministro della Difesa. Quindi io parlo di responsabilità di parti diverse. Se non avviene e il Presidente della Camera continua a sentire conigli ridendo quando si parla dell'opposizione e invece a deferire ai questori se invece si tratta di cose nei suoi confronti, oppure se il Ministro della Difesa dice vaffa al Presidente della Camera e ciascuno resta al suo posto, che cosa avviene? Che errori di pochi esprimono però la cifra politica prevalente e allora i tanti, tra virgolette, che hanno senso della misura verranno loro a pagarne il fio agli occhi dei contribuenti e degli elettori. Questa è la mia sensazione e credo che sia giusto, perché la democrazia è questa, soprattutto con quello che questi signori, e lo dico non per antipolitica ma per la spesa pubblica dov'è, costano a noi tutti. Ecco, questo è giusto dirla così e non è antipolitica. E dobbiamo fermarci, in che stanno anche l'onorevole Guido Crosetto, l'onorevole Biondi, insomma anche tutti gli ascoltatori, chi è intervenuto e chi no, con questo leitmotiv. Dice un ascoltatore, il 17 marzo 180 morì Marco Aurelio e da allora le cose vanno sempre peggio. Ma come il 17 marzo? Abbiamo festeggiato? Ho capito, è la morte di Marco Aurelio, un grande della nostra civiltà. Io pensavo che fossero i 150 anni dell'Italia. Ma no, il problema è che c'è qualcuno che giustamente rimpiange quando non si votava, cioè, capisci? Mai... La democrazia, cioè la rappresentanza, la con le democrazie proprio... complesse, non è detto che vada ben d'accordo, bisogna tornare al Principato. Va bene, Oscar, qua ci dicono fate la trasmissione sempre insieme. No, c'è anche chi critica molto, ci dice che siamo come Cruciani e Parenzo. Vabbè, ma è una critica? Chi lo dice, dice che è critica. Ah, va bene. Ci fermiamo, grazie a tutti. Alessandro Longoni, Alessandro Marco Tulli, Franco Piantanini, Elisabetta Fusconi, in redazione. Beh, è uno speciale. È uno speciale, tutti uniti nel dire no allo Stato ladro! Carmelo Lauricella in regia con Filippo Oreggi. Ciao.